sasso in uno stagno, tanti cerchi vedrai apparire, sempre più grandi, sempre più lontani. Ma che vorranno dire? Trasmettono il messaggio ricevuto, un'azione d'amore o un grido d'aiuto, o il livore dell'odio, chissà. Cerchi rosa, cerchi blu, ora lo sai anche tu. Così ogni pensiero di bene, tanti cerchi rosati diffonde, che suscitano intorno atti d'amore in benefiche onde. Quello che fai non cade mai perduto, come seme tenace si propaga da frutto balsamico o benefico, chissà. Cerchi rosa, cerchi blu, ora lo sai anche tu. Ogni gesto cattivo ed ostile produrrà cerchi blu, cerchi neri, suggerendo contrasti, azioni vili e malvagi pensieri. Vanno le onde, vanno all'infinito, verso spiagge lontane, ai confini del mito, e fermarle mai nessuno potrà. Cerchi rosa, cerchi blu, ora lo sai anche tu. La mano che s'alza a colpire, intorbida qualcosa tutto intorno, ma la mano levata a benedire, schiude cieli sereni d'attorno. Seme di bene che dà gioia e canto, seme di male che genera pianto, ma tu puoi scegliere ciò che sarà, tu puoi scegliere ciò che avverrà, ma tu puoi scegliere ciò che sarà, tu puoi scegliere ciò che avverrà. Cerchi rosa, cerchi blu, ora lo sai anche tu. Cerchi rosa, cerchi blu, ora lo sai anche tu.